Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di lavoro, del nostro lavoro, del lavoro degli altri, del lavoro nella storia, nella letteratura, anche nel teatro. Lo facciamo con Stefano Massini. Buonasera Massini. Buonasera a voi. Buonasera. Massini non è un economista, ma parla di economia perché ha scritto un libro che proprio si chiama Lavoro, nella collana Parole Controtempo del Mulino, ed è consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, drammaturgo, sceneggiatore e romanziere. E allora Massini, la prima domanda è: perché si occupa di lavoro un drammaturgo, un romanziere? Beh, la risposta potrebbe essere che, curiosamente, il teatro si è sempre occupato molto di lavoro. Pensate a Goldoni, la sua commedia più famosa è La Locandiera, il titolo è un mestiere. Altre commedie di Goldoni, La Bottega del Caffè, ce n'è una addirittura intitolata Una delle ultime sere di carnevale, in cui si racconta la storia di alcuni tessitori particolarmente tristi perché devono andare a lavorare con le stoffe in Moscovia. Quindi diciamo è già il tema della delocalizzazione tre secoli prima. Il teatro si è sempre occupato di lavoro perché si è sempre occupato dell'essere umano, e l'essere umano è legato profondamente all'identità e alla necessità di fare appunto un mestiere. Ecco, proprio in questo libro si racconta come il lavoro appartenga in fondo alla storia dell'umanità, appartenga ad ogni persona e abbia anche diverse connotazioni. Si parla di lavoro in tante prospettive. Che prospettive mette in luce Massini in questo libro? Ma intanto partiamo dal presupposto che questa collana molto bella del Mulino è una collana che affida delle parole, diciamo, difficili, il cui significato è stato negli ultimi tempi travisato, cambiato, in alcuni casi corrotto. Ecco, fra le varie parole c'è anche la parola lavoro, e quindi mi hanno chiesto di occuparmi io, appunto, di questa parola, che è una parola che ha cambiato significato, ha cambiato sapore. Io nel libro racconto che mi ricordo molto bene quando ero un bambino e andavo a vedere un museo che c'era, credo, nella prima collina fiorentina. In questo museo c'erano delle statue automatiche che si muovevano rappresentando i vari mestieri della società contadina. Ecco, io racconto nel libro come tutti questi visi fossero, mentre facevano il loro lavoro, assolutamente lieti, sorridenti, felici, e quello rappresentava un modello di lavoro che oggi è molto lontano dal nostro, nel senso che oggi il lavoro viene spesso interpretato come sinonimo di stress, di problemi. Io nel libro racconto come, per esempio, nel sentire comune, nel sintonizzarsi su una trasmissione e sentir dire ora ci occupiamo di lavoro, di solito significhi che ora arrivano le dolenti note. Certo, ecco. Anche perché spesso si parla di un lavoro che non c'è, del fatto che... Esattamente, si parla di un lavoro che non c'è, e questo è probabilmente uno dei risultati della grande crisi che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Ma non è soltanto questo, a mio parere, è anche il fatto che molto spesso oggi l'essere umano cerca la propria realizzazione in qualcosa che non è più il mestiere, ma è il tempo libero, altra espressione collegata al certo. Mondo del lavoro, che ci deve far riflettere, perché noi definiamo appunto il nostro tempo lavorativo un tempo, apro virgolette, occupato, che è un termine che viene dal latino, un termine militaresco, cioè l'occupazione, fatta da un esercito straniero, quindi interpretiamo il tempo del lavoro come un tempo preso da un esercito straniero, contrapposto invece al tempo, guarda caso, libero. Ecco, credo che già questo possa farci riflettere molto sulle parole, perché le parole sono dei veicoli, sono degli strumenti, ma quello che è importante è ciò che noi ci mettiamo dentro. Certo, l'immagine del lavoro è comunque sempre quella di una fatica, di un'occupazione, di qualcosa che uno fa con sacrificio, come qualcosa che si deve fare quasi per quella condanna appunto del peccato originale, ma che si deve fare per guadagnarsi il pane quotidiano, per mantenere la famiglia e così via. È un dovere più che un piacere. Eppure la società contemporanea ha sollevato molto spesso dai lavori faticosi, dai lavori manuali, abbiamo affidato alle macchine molte cose, abbiamo avuto più spazio per fare lavori di concetto. Forse non ce ne siamo accorti nel sentire comune di questo cambiamento, Massini? Guardi, io dedico un capitolo intero a questa cosa che lei ha detto adesso. Nel senso, io la ritengo una delle componenti, non dico fondamentali, nodali, ma sicuramente una delle componenti che giocano, d'accordo, all'interno di questa scacchiera. Nel senso, a un certo punto nella storia lunga dell'umanità, l'uomo ha sentito il bisogno di dotarsi di alcuni aiuti per non faticare, o perlomeno per faticare meno. È chiaro, no? Il ricordo è quello, per esempio, del contadino che in un determinato momento, tra l'altro noi non sappiamo chi sia stato, ma c'è stato un qualche contadino X nella storia dell'umanità che ha avuto l'idea di risparmiarsi la fatica di rivoltare la terra creando una macchina, cioè un aratro, collegata a un bue. Cosa è successo? È successo che l'uomo ha spostato sull'animale, cioè su un aiuto, la fatica che avrebbe dovuto fare lui. Bene, questo tentativo di dotarsi di aiuti è andato avanti nel corso degli anni, nel corso dei secoli. La rivoluzione industriale si è inventata, come sappiamo, i telai a vapore, e quindi tanta fatica di manodopera si è spostata sulle macchine. Qual è il punto? Il punto è che oggi l'evoluzione straordinaria della tecnologia, l'informatizzazione, la digitalizzazione, da un lato ci hanno tolto grandissime fette di fatica, ma dall'altro lato, paradossalmente, sono arrivate a un tale punto di precisione e di avanzamento da diventare quasi competitive. E al di là del fatto che ci possano essere dei posti di lavoro che vengono meno con l'inserimento massiccio della tecnologia e della robotica, il punto che mi interessa è un punto psicologico. Stare accanto ogni giorno e in ogni ormai forma di lavoro, perché come sappiamo la tecnologia ormai è vitale in tutti gli aspetti, dal grande terziario che è tutto ormai informatizzato, a tutta quella che è anche la grande industria della manifattura e via dicendo. Bene, stare accanto a una tecnologia così infallibile, così precisa, così tecnicamente affidabile, non avrà creato nell'essere umano la sensazione di essere l'anello debole della catena? La macchina non sbaglia, io sbaglio. Se oggi c'è qualcosa che all'interno di un posto di lavoro può sabotare, d'accordo? Certo. Non è il guasto della macchina, che è sempre più raro, ma è l'errore umano. Ed è un'espressione questa sulla quale ci sarebbe tanto da ragionare. Quante volte diciamo l'errore umano? E forse si tratta di riprendere in mano una propria responsabilità e una propria capacità di avere quella creatività che le macchine non hanno. In fondo l'uomo sbaglia, ma sbaglia perché agisce, la macchina non agisce, la macchina compie solo una funzione. Attenzione, perché ricordiamoci che per molti anni si è sostenuto, per esempio, che le macchine nel mondo del lavoro non avrebbero mai potuto sostituirsi all'essere umano in determinati tipi di lavoro, cioè in quelli giustamente creativi, no? Bene, oggi non è più così, nel senso che io ho fatto una serie di ricerche prima di scrivere il libro. La cosa impressionante è che in Giappone ci sono già i robot violinisti, ma ci sono già adesso, mentre noi parliamo, ci sono addirittura dei quotidiani statunitensi che utilizzano dei robot per la scrittura di articoli di cronaca. Quindi persino la creazione di spazi comunicativi, articoli editoriali, potrebbe diventare affidata alle macchine. Noi stiamo, a mio parere, sotto questo punto di vista, stiamo vivendo in un'epoca nella quale non ci rendiamo ancora bene conto di quanto, insisto a usare questo aggettivo, di quanto veloce sia il cambiamento. Ma lei, Massini, abbiamo la percezione di un cambiamento, ma non della sua velocità. Vedrebbe un dramma teatrale recitato dai robot? Lo sa che una cosa buffa è che la parola robot deriva da un dramma che fu scritto da un drammaturgo ceco della Repubblica Ceca, appunto, sì. Karel Čapek, che nel corso del Novecento scrisse appunto un'opera dove si raccontava di una specie di automa che si chiamava robot, da cui noi lo chiamiamo robot, quindi è una parola ceca. Il teatro c'è già dentro. Quindi anche nel teatro potremmo avere anche in futuro delle macchine pensanti, delle macchine intelligenti, però... Beh, attenzione, sotto questo punto di vista vi dico una cosa che è impressionante. All'inizio del secolo scorso Pirandello, quando scrisse quel romanzo per alcuni versi incompreso che è Si gira, Quaderni di Serafino Gubbio Operatore, beh, Pirandello già era terrorizzato all'idea del fatto che in un'epoca come la sua, profondamente teatrale, ci potesse essere un utilizzo dell'attore che diventava semplicemente proiezione di un fascio di luce sopra uno schermo. L'inizio del cinema venne interpretato, per noi oggi è normale, ma venne interpretato come la definitiva fase del tramonto dell'attore, che si sarebbe trasformato prima in un fascio di luce e poi magari a sua volta in una macchina recitativa. Ci fermiamo qui, Massini, dobbiamo fermarci qui, anche se potremmo andare avanti, sarebbe bello andare avanti anche ad approfondire questi temi del rapporto tra gli uomini e le macchine, tra gli uomini e il lavoro, tra gli uomini e la realtà che comunque è da conoscere, da riprendere in mano anche nei suoi aspetti un po' drammatici, ma far diventare il lavoro qualcosa di utile, di propositivo, di creativo è in fondo il compito di ognuno di noi. Lei ha creato qualche cosa di molto interessante che è il libro di cui abbiamo parlato questa sera, che ricordo ai nostri lettori, si tratta di Lavoro, nella collana Parole Controtempo del Mulino, sono 132 pagine per 12 euro. Grazie a Stefano Massini, grazie anche a Luca Cremonese in redazione e a Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.